Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Si piegano e si flettono, eppure con questi due semplici movimenti ci permettono di fare un sacco di cose. La prima è muoverci, fondamentale. E poi vincere. C'era la partita! È vero, Italia-Nigeria! Che Italia-Nigeria, Italia-Norvegia! Vabbè, NGNG, la targa uguale. Sì, la targa. Controllo da parte di Cannavaro. E dunque l'Italia che sta impostando. Lo faccio ad Albertini. Partito. Lascio Berrieri. Contropiede azzurro. Limite dell'area. Entra Vieri. La palla in palla. Cannavaro, campioni del mondo. Ma anche dichiararci. Ritornerò. No? Parliamo delle nostre ginocchia. 800 24 00 24. Andate anche sul nostro profilo Facebook e fate felici sia me che Laura Vanossi. Stiamo parlando delle nostre ginocchia, un miracolo di ingegneria che vanta alcuni primati. Ad esempio, è una delle più grosse e complesse articolazioni del corpo, ma anche una delle più delicate, perché deve sopportare il peso del corpo. A volte non è proprio un peso più, ma il peso del corpo, dicevo, che durante la deambulazione può raddoppiare o triplicare, o nella corsa o nell'attività sportiva può aumentare, pensate, di 4 o 5 volte. Voi ci avevate mai pensato? Io sinceramente no. Allora, credo sia necessario imparare a fare una buona manutenzione, ed è quello che faremo oggi insieme ai nostri ospiti. Intanto iniziamo da una coccola, anzi da due. La prima destinata a chi sta spesso in piedi e la seconda invece a chi come me sta spesso seduto. Ma in linea abbiamo Anna Maria Cova, fisioterapista e fondatrice della Cova Tech Pilates School. Ciao Anna Maria. Ciao e buongiorno a tutti. Allora, da chi iniziamo? Da chi sta in piedi o da chi sta seduto? Guarda, mi sono messa seduta perché ho detto ginocchia sane, perché adesso sentirete con tutti gli ospiti che hai lì in studio che cosa può accadere alle ginocchia, quindi parto dal presupposto, anche se sono fisioterapista, di dare un consiglio a persone che in questo momento stanno ascoltando e sono lì sedute e dicono: brava, cosa potrei fare? Ok, io sono pronta perché sono seduta anch'io. Ah, ok, allora, prima cosa, che facciamo un piccolo ripasso, perché le ginocchia stanno tra i piedi e il bacino, per cui per poter fare una cosa da seduta correttamente allineiamo bene la nostra schiena oscillando a destra e a sinistra per sentire che gli ischi, che sono le ossa sotto del bacino, siano ben allineati, e poi troviamo una posizione corretta senza avere la pancia in fuori e senza mettere la schiena storta. Sì. A questo punto sentiamo le nostre ginocchia, che cosa facciamo? Le allineiamo dritte davanti a noi e lentamente stendiamo la gamba destra. Qualcuno di voi si torcerà tutto, provate a vedere se riuscite a stendere quella gamba destra senza dare un calcio al vostro vicino di scrivere. E appoggiate giù il piede e poi proviamo a stendere la gamba sinistra e appoggiate di nuovo il piede. A questo punto vi do una cosina, molto spesso mi sento dire: mamma mia, ho le ginocchia che sono grosse, adesso ci sono le gonne da mettere perché viene la stagione più bella e gli stivali non nascondono più le ginocchia. Facciamo una piccola cosa per proprio tirar su le ginocchia. Che cosa facciamo? Stendiamo la gamba destra come abbiamo fatto prima. Sì. Rimaniamo su dritti, va bene anche per gli uomini naturalmente, pieghiamo leggermente il ginocchio, diciamo di qualche centimetro, e stendiamo ancora la gamba e ripetiamo questo movimento continuando, sono a 4 e 5 e 6, 7 e 8, stendo forte la gamba, piego la gamba e mentre io sto parlando voi stendete la gamba sinistra e ripetete per 8 volte. Perché mentre sto parlando? Perché così saprete che state attivando le fibre di un muscolo che si chiama vasto mediale, che fa parte del gruppo del quadricipite, ma è un muscoletto che tira su proprio la parte finale che ci interessa di più, quella, del nostro ginocchio, quella che di solito cade. Esatto. Allora, i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo comodamente seduti li abbiamo sistemati, resta chi invece per lavoro, per necessità, sta spesso in piedi. Anche per questi ascoltatori tu hai pensato ad un esercizio semplice? Quelli che sono in piedi trovino una parete che può essere una porta oppure un armadio, perché il muro è un po' troppo ruvido per poter fare questa cosa che ho pensato per voi. Appoggiando la schiena alla porta o all'armadio, allontanate i piedi un pochino dalla parete, in modo da poter appoggiare bene la schiena, e già sentirete un beneficio, perché se piegate leggermente le ginocchia e le estendete, comincerete di nuovo a muovere l'articolazione, dando beneficio sia alla schiena che all'articolazione delle ginocchia, che è rimasta ferma per tanto tempo. E qui io sto eseguendo l'esercizio mentre vi parlo, piegando leggermente le gambe e tornando ad estenderle. Attenzione, non stendetele tantissimo. Un difetto che possono avere le ginocchia è quello di estendersi troppo. Ripeto, so che oggi ne saprete di tutte e di più sulle ginocchia, io devo essere il più possibile generica per tutti quanti. L'importante è non stenderle troppo, invece le piegate leggermente. Ripetendolo 10 volte già date un bel beneficio di movimento all'articolazione. Voilà, grazie allora ad Anna Maria Cova, torna presto a trovarci, buona giornata. Altrettanto a voi. E come si dice, sempre in gamba, Anna Maria. Ciao. Allora, servono piccole cose per prenderci cura di noi stessi, le impariamo ogni giorno nel nostro laboratorio, nella nostra officina del benessere. Dante, che mi ha scritto una lettera infuocata, mi scusi, ma l'abbiamo proprio chiamato Daily Lab, lab da laboratorio, un laboratorio quotidiano. Ma qua in studio con me voglio salutare subito il professor Roberto D'Anchise, primario ortopedico all'Istituto Scientifico Galeazzi di Milano, che è tornato a trovarci. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti voi. Il ginocchio in fondo non ha bisogno di cure straordinarie, ma solo di un po' di attenzione, direi un pochino di rispetto. Sì, allora diciamo innanzitutto che l'articolazione del ginocchio è un'articolazione un po' bizzarra, nel senso che noi abbiamo la parte finale del femore che come se fossero due palle che si articolano con una superficie piatta che è quella tibiale. Sì. Quindi per mantenere il tutto insieme ci sono i legamenti, ci sono i menischi, e quindi è un'articolazione complessa, però è un'articolazione che ci fa vivere bene, è bella, è funzionale, ci consente di fare tantissime cose, però diciamo così deve essere voluta bene. Prima si accennava anche al peso. Ecco, voi pensate che in un'articolazione così complessa il peso sicuramente comporta per il ginocchio un impegno, un lavoro mica da poco, quindi una prima cosa per voler bene al ginocchio è cercare di non essere troppo pesanti. Sì, non appesantirlo troppo. Perché questo nel tempo può dare anche qualche problema. Però ripeto, è stata molto bella la fatta iniziale quando sentivo la canzone di Morandi, perché avevo pensato a tante cose carine che può fare il ginocchio, ma non avevo pensato alla dichiarazione d'amore o alla corsa. Vede? Che si può fare. Quindi diciamo è un'articolazione che ci può dare tanto, ma che deve essere voluta bene, secondo me. 800 24 00 24, messaggi al 349 238 6666. Io voglio salutare anche il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo, responsabile del centro sportivo DDS Dimensione dello Sport di Settimo Milanese, che è in linea questa volta con noi. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Buongiorno, buongiorno Nicoletta. Dottor Confalonieri, muoversi fa bene, ma spesso le nostre ginocchia ne pagano un po' il prezzo, perché tra gli sportivi, e io non parlo, dottore, solo dei professionisti, ma soprattutto di quelli amatoriali, il ginocchio sembra essere un po' il vero tallone d'Achille. Perché? Forse perché ci dimentichiamo di applicare la sua regola, la gradualità? Ma quello sicuramente, al di là di tutto. E poi il ginocchio è veramente un'articolazione delicata, un punto delicatissimo del nostro sistema osteomuscolare. Diciamo che è spesso l'articolazione che ci obbliga a sospendere un'attività sportiva e quando abbiamo un infortunio, un incidente, poi su questo Dan Chiese sarà sicuramente molto più esaustivo di me, è spesso quello che ci crea più problemi per una ripresa. Diciamo inizialmente che non possiamo pensare di iniziare una qualsiasi attività fisica che preveda l'utilizzo delle gambe senza fare una valutazione preventiva del nostro ginocchio, quindi capire com'è, come non è, quali sono i fattori di rischio e su cosa devo lavorare o su cosa non posso lavorare. E ciò detto, qualsiasi segnale ci mandi va ascoltato con estrema attenzione, perché purtroppo è un'articolazione importantissima, delicatissima e molto molto esigente, cioè molto difficile da trattare prima e purtroppo molto difficile da trattare anche per il chirurgo, per l'ortopedico, qualora ci fosse un problema. Esigente, dice il dottor Confalonieri. Professor Dan Chiese, abbiamo detto le ginocchia si piegano, si flettono, vi aiutano, no? In ginocchio potete fare anche una dichiarazione d'amore, riprendete questa cosa, no? Non è bellissimo? Bellissimo. Quindi mantenete le ginocchia sane, perché così poi vi potete dichiarare, questo potrebbe essere. Però noi le sottoponiamo spesso ad altre sollecitazioni. Ci sono movimenti che le danneggiano in modo particolare? Ma diciamo che tutti i movimenti forzati sono sicuramente a rischio. Più che altro, più che forzati, bisogna dire i movimenti che vengono fatti senza una concentrazione. Facciamo un esempio: se io gioco a pallavolo e faccio una schiacciata e faccio un punto, quando atterro dal mio salto io guardo dove è andata la palla, se ho fatto il punto, ma non penso a come atterro. Sì. Questo è un momento ad alto rischio, perché in quel momento, come dicevo prima, tutta quell'articolazione complessa può avere delle sollecitazioni anomale e può creare delle difficoltà. Quindi l'elemento importante per non creare danni all'articolazione è certamente quello di essere sempre molto attenti nei movimenti. Quindi, dove mettete i piedi? A dove mettete i piedi e dove mettete le ginocchia è fondamentale. E in tutto questo, un fisico bestiale. Allora mi devo arrabbiare. Se ti fa piacere. Che muscoli. Sei una treta. Il mio primo salto di pesi. I pesi che ti hanno trasformato da un pappamolle bavarese in una massa di muscoli pulsanti. Anche per bere per fumo. Sì. Undici, dodici. Sapete ragazzi, riesco a farne il doppio di quando ho cominciato. E guardate che addominali. Ci vuole un fisico bestiale. Dottor Confalonieri, ci vuole un fisico bestiale, perché il ginocchio, per stare bene, deve fare affidamento su un buon tono muscolare. E qui la voglio, perché voglio capire cosa si può fare, ma senza necessariamente sottoporsi a sedute con pesi, attrezzi per rinforzare i muscoli delle gambe. Ci sono degli esercizi che ci possono aiutare? Quali muscoli dobbiamo potenziare? Tenere belli tonici, poi... Ecco, direi che l'aspetto che avete sottolineato adesso è davvero di grande importanza, perché il tono muscolare che stabilizza, come diciamo noi medici sportivi, il ginocchio è di fondamentale importanza nella prevenzione di qualsiasi problematica del ginocchio. Sì. E in particolare mi riferisco al tono muscolare dei muscoli più evidenti a livello della coscia, quelli che stanno davanti, per dirla in un modo un po' così banale, quindi il quadricipite femorale, ed anche il tono muscolare però dei muscoli che stanno di fianco, quindi il vasto mediale, e dei muscoli che stanno dietro, e quindi il bicipite femorale. Questi muscoli vanno allenati e possono essere allenati in modo estremamente semplice. Direi che gli esercizi che ci ha consigliato prima l'amica del Pilates vanno sicuramente bene, non mi limiterei però a questi, anche perché sono entrambi esercizi di tipo dinamico, quindi che presuppongono un movimento e qualora ci fossero dei problemi o delle fragilità o delle criticità a livello del ginocchio, questi esercizi purtroppo accentuano questi problemi, per cui io consiglierei anche degli esercizi cosiddetti di tipo isometrico, cioè che non prevedono movimento della gamba, Per cui molto semplicemente noi possiamo limitarci a stare per esempio sdraiati oppure seduti e a contrarre i muscoli della gamba, contrarli ripetutamente per 2 o 3 secondi per parecchie volte, sì, rilassandoci, e questo comporta un potenziamento. Oppure mettere un cuscino, 2 cuscini in mezzo alle gambe e sì, poi fare pressione verso l'interno, quindi schiacciare i cuscini che abbiamo in mezzo alle gambe, mantenere questa pressione per alcuni secondi, e in questo modo potenziamo il vasto mediale, che spesso è il muscolo più critico rispetto appunto alle problematiche del ginocchio. Oppure sfruttare qualcosa che era molto molto di moda tanti anni fa, era di moda però per il dimagramento, e per il dimagramento obiettivamente funzionava anche poco, cioè l'elettrostimolazione. Ecco, l'elettrostimolazione, gli elettrostimolatori si trovano ancora in commercio anche a prezzi veramente bassissimi, sì, è straordinariamente efficace per potenziare la muscolatura della gamba, quindi il quadricipite, il vasto mediale, il bicipite femorale, senza che ci sia movimenti e quindi senza che il ginocchio sia sollecitato. In questo modo noi riusciamo a stabilizzarlo senza rischiare di infiammarlo, senza rischiare di creare problematiche. Questo soprattutto negli anziani, perché spesso il ginocchio è un problema per l'anziano. Sì, che ma magari... leggendo i messaggi dei nostri ascoltatori devo dire che è anche un problema dei giovani. Ci sono ascoltatori che si firmano e mi mettono delle età, che 23, 25 anni. Il giovane magari fa sport, invece l'anziano è proprio un problema di qualità della vita, e quindi riguarda anche tantissimi, credo, fra i nostri ascoltatori, che magari nella vita di tutti i giorni, facendo le scale, uscendo dall'auto, si pinzano il menisco, hanno un piccolo problema al ginocchio e possono recuperare davvero bene attraverso questi esercizi di tipo isometrico, attraverso l'elettrostimolazione, lo possono fare a casa, non c'è nessun tipo di problematica, evitano l'intervento chirurgico, evitano l'immobilità e coccolano, come si diceva all'inizio, questa articolazione così esigente. Posso fare un piccolo commento? Sì. Tutto perfetto quello che ha detto il dottor Confanonieri, e condivido appieno, anche perché un elemento che non è stato ancora trattato, la muscolatura stabilizza anche la rotula, che è uno degli elementi importanti della nostra articolazione. L'altro messaggio è che lui ha mandato correttamente, ma vorrei enfatizzare, attenzione, l'elettrostimolazione non deve sostituire un'attività fisica, va bene per gli anziani, come diceva lui, va bene per le persone che hanno avuto interventi e fanno fatica a recuperare, però io dico sempre che la ginnastica dei pigri. Nel momento in cui noi facciamo un'attività fisica attiva, lavora tutta la muscolatura e questo sicuramente è un vantaggio. Vado subito a Messina. Abbiamo Giuseppe che ha chiamato l'800 24 0024, un numero che oggi è a vostra disposizione per imparare, continuare a fare stare bene le vostre ginocchia. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, io ho 52 anni, sì, da sempre ho fatto sport e continuo a farlo adesso. Bravo. Vado a correre almeno 2 volte la settimana. Ecco, io non ho avuto grossi problemi a livello di ginocchia, solo però che spesso mi capita, ad esempio quando sono a letto, quando sono seduto, dopo 2 o 3 minuti allungo la gamba e sento scricchiolare il ginocchio, però senza dolori, però sono rumori molto forti, ecco. Posso dire una cosa? Le dico, la consideri una bella compagnia, nel senso che i rumori del ginocchio che non fanno male sono solo una compagnia. Non si preoccupi, non faccia accertamenti fino a quando non ha dolore. L'unica osservazione è che sicuramente la corsa, lei la fa con buon senso, mi pare di capire, però la corsa fatta molto, dal maratone, è sicuramente un'attività sportiva pesante per l'articolazione. Comunque non si preoccupi assolutamente, non si faccia vedere da nessun medico. Non si faccia, perché poi se uno va dal medico qualcosa trova. Certo, perché fa la radiografia, fa la risonanza, e si preoccupa e smette di fare la sua vita. Invece la faccia e continua a fare quello che fa. Chiedo a Filippa Oreggi, posso sentire Giuseppe da Cuneo? Un attimo. Giuseppe, almeno la saluto, perché noi abbiamo i mercati. È veloce o lunghetto? Giuseppe? No, io? Sì, no, sono veloce, la domanda è questa. È una 15 giorni, 20 giorni che quando vado a letto, che tengo le ginocchia un po' piegate, e poi le stendo, il ginocchio destro mi fa male, ma è un dolore sopportabile, però non bisogna che faccia il movimento lento lento. Premetto che questo ginocchio è stato operato nel 90, ho avuto due artroscopie, la prima mi hanno fatto rotula e legamenti crociati. In sintesi mi pare che avete un po' fretta, probabilmente è un problema di cartilagine legata a tutte le sue pregresse avventure e vale la pena di fare qualche accertamento, in particolare una risonanza, una radiografia e farsi vedere. Noi adesso andiamo ai mercati, voi continuate a chiamarci, raccontateci qualcosa di voi, se siete sedentari o sportivi, nel caso quale sport praticate, se siete magretti o un po' tondini, donne o uomini, e noi vi suggeriremo come riprendervi e come prendervi cura delle vostre ginocchia, anche perché se stanno bene loro siamo, come si dice, a metà dell'opera. Mercati, meteo e poi di nuovo qui insieme. Noi vi aspettiamo. Essere e benessere. C'è il ginocchio della bella lavanderina, in realtà della lavandaia, ma c'è anche quello del ciclista, quello del corridore. Dottor Confalonieri, non c'è un'altra articolazione che come il ginocchio vanta tante, come si possono chiamare, non sono appellativi, caratteristiche. Come mai? Beh, diciamo che un'altra articolazione problematica è sicuramente la spalla. Ma che spalla c'è? La spalla del nuotatore, del tennista, sicuramente, però indubbiamente il ginocchio da questo punto di vista è il leader nel crearci potenziali problemi e direi che ci sono indubbiamente sport che sono maggiormente a rischio e sport invece che sono minimamente a rischio o addirittura salutari per il ginocchio. Partiamo da quelli salutari. Allora, sicuramente per esempio il ciclismo è uno sport che mediamente fa del bene al ginocchio perché garantisce movimento, garantisce potenziamento della muscolatura impegnata nella stabilizzazione del ginocchio e difficilmente crea problemi se c'è una corretta posizione in bicicletta e una corretta tecnica di pedalata. Invece poi abbiamo degli sport a rischio dal punto di vista della sollecitazione ripetuta del ginocchio. Da questo punto di vista la corsa è sicuramente lo sport più tipico, nel senso che noi abbiamo un'azione ripetuta e costante nel tempo che però indubbiamente sollecita il ginocchio con un traumatismo cronico e ripetuto. E infine abbiamo tutti quegli sport in cui il ginocchio è sollecitato non solo da un punto di vista biomeccanico ma anche da situazioni che sono variabili. Pensa a tutti gli sport di squadra, il calcio, la pallavolo, la pallacanestro, dove il ginocchio è fortemente sollecitato, ma anche con movimenti che sono assolutamente variabili, non prevedibili e legati alla situazione di gioco. E quindi sono sport indubbiamente a rischio, prescindendo poi da tutti quegli sport in cui è previsto anche un contatto e per cui l'incidente o l'infortunio a carico del ginocchio può derivare per esempio dall'intervento scorretto di un avversario. Questo, come si dice, destino. Lino, dalla buona provincia suerte di Pisa. Buona suerte. Lino, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, che sia uomo, l'ho capito. Sì, e ho anche 59 anni, quindi sono un uomo un po' vecchietto. No, direi... Bambino. Un bambino, no, nel cuore. Punti di vista. Dipende dai punti di vista. Lino, ma lei è uno sportivo o un sedentario? Sì, faccio a livello amatoriale un po' di corsa, regolarmente oramai da diciamo quasi 30 anni. Sì. Ho dovuto fermarmi qualche mese fa perché mi è venuto un doloretto al ginocchio che io sentivo, cioè un dolore che mi impediva di piegare completamente il ginocchio, quindi nel classico stretching che consiste nel cercare di portare il tallone contro la natica, io non riuscivo più a farlo, dovevo fermarmi perché a un certo punto, diciamo, a metà corsa faceva male il ginocchio. Quindi sono andato da uno specialista, mi è stato detto che erano problemi legati ad una erosione della cartilagine del ginocchio, mi sono state fatte delle iniezioni che mi hanno risolto il problema del dolore. Sì. E adesso però mi si pone il problema di come iniziare nuovamente l'attività, perché chiaramente nel frattempo la mia muscolatura ha perso molto tono. Certo, Lino, come facciamo? Professor D'Anchise. Allora, due osservazioni. Purtroppo lei paga un po' il prezzo della sua attività sportiva. Come abbiamo detto prima, la corsa è certamente lo sport più pesante per l'articolazione. Altra osservazione, le infiltrazioni che lei ha fatto, le hanno fatto passare il dolore, hanno un po' lubrificato l'articolazione. Il rischio però è che quando finisce l'effetto lubrificante si ritorna esattamente come prima. Il consiglio che io posso darle è: corra senza dolore, cioè non raggiunga mai la soglia del dolore, né durante né subito dopo nel giorno dopo. Mi spiego meglio, lei non corra più come prima, corra la metà, dico, per dire. Se la metà va bene, aumenti un pochino, se vede che ha qualche problema riduca. Purtroppo quando la cartilagine si consuma e non si è proprio dei bambini, c'è poco da fare. Antonio da Genova, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, volevo salutare voi e tutti i radioascoltatori. Senta, io ogni tanto a me cedono le ginocchia, l'ho scoperto mentre ero in vacanza d'estate in una casa che era su due piani, il bagno era piano terreno. Quanti anni ha? Di notte o la mattina, 48 anni, di notte o la mattina scendendo, quindi a freddo diciamo, sì. Mi cedeva improvvisamente una delle due ginocchia. Alternativamente, per non... Questo sinceramente non lo ricordo. Ogni tanto mi accade... Le ginocchia? Questo fenomeno. Ma questo con dolore o senza? No, senza dolore, improvvisamente proprio cede un ginocchio. Siccome io volevo cominciare a sciare, perché non so sciare, ma ho dei bambini che adesso cominciano a sciare, quindi... Non fa attività fisica lei? Attualmente. L'ipotesi più ragionevole è che sia una mancanza di tono muscolare, perché se non ha dolore probabilmente è questo. Quindi cominci pure a sciare, però attenzione, faccia prima una buona attività pre-sciistica in modo da avere una buona muscolatura, e quando il ginocchio non cede più cominci pure a sciare con i suoi figli. Dottor Confalonieri, lei è d'accordo? Se il ginocchio cede, possiamo fare un po' di così remise en forme con una ginnastica un po' mirata, senza... Sono assolutamente d'accordo, può bastare la ginnastica anche casalinga a cui accennavamo nella prima parte della trasmissione. E poi un consiglio che do a questo punto, importante per il ginocchio ma non solo: in ogni caso, se dobbiamo andare a sciare, evitiamo di arrivare in pista con l'auto, più se giovia, e poi cominciare a sciare. È molto più sano fare 15-20 minuti di camminata, magari senza gli scarponi da sci e senza gli sci in spalla, perché questo consente comunque di attivare sia la funzionalità muscolare, sia soprattutto la funzionalità neuromotora e propriocettiva, e di ridurre criticamente il rischio di incidenti. Adesso, professor, volevo fare ancora un'osservazione, sì, che non c'entra del tutto con questo argomento, però attenzione, molti pazienti quando hanno un problema al ginocchio si mettono una ginocchiera in maniera un po' random, senza una motivazione. Attenzione che la ginocchiera, se non c'è l'indicazione precisa, non serve, e anzi è negativa, perché facendo muovere un po' meno l'articolazione diminuisce il tono muscolare. Grazie per questa indicazione, perché quando uno ha male dice vabbè dai, metto la ginocchiera che lo tiene un po' su, bella stretta, bella... così non circola neanche il sangue. E invece no, errore. Ma noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, e poi io vi aspetto qui. Essere e benessere. Professor D'Anchise, non abbiamo parlato del famoso ginocchio della lavandaia. Sì, che cos'è il ginocchio della lavandaia? È praticamente una borsite. Sinteticamente, madre natura, dove c'è un osso a contatto con la pelle, il gomito, la rotula, ha messo due foglietti che sono una specie di cavità virtuale, sono appiccicati l'uno all'altro per ridurre l'attrito. Se c'è una sollecitazione importante, come la lavandaia di una volta, evidentemente non la lavatrice, si può riempire di liquido, si può infiammare e quindi viene fuori una palla davanti alla rotola, e questa è la famosa borsite, che non può, come dicevo prima, essere presente solo al ginocchio, però può essere presente nel gomito e anche in altre zone. Ennio, dalla provincia di Monza e Brianza, mi scrivono. Buongiorno Ennio. Buongiorno a lei, dottoressa, e ai suoi ospiti. Ci racconti. Allora, io ho 60 anni e faccio sport in palestra 3-4 volte alla settimana. Caspita, Ennio. Beh, ma di solito prima ne facevo 6 giorni. Quindi... Ah, va bene, quindi... Ecco, in più la domenica mi faccio dai 40 ai 60 km in bicicletta. Vabbè, lei non fa testo. Ma Ennio, ma lei... non vale. E se le sue ginocchia si lamentano, hanno anche un po' ragione. O no? Lo so. Però vabbè, adesso... ci dica qual è il problema. No, il problema è che io facendo tutto questo sport pensavo di migliorare la situazione. Invece da un mesetto a questa parte... Quando vado in bicicletta il ginocchio non mi fa assolutamente male, non sento niente. Sì. Quando corro a piedi oppure faccio qualche esercizio oppure anche le scale, sento un doloretto al ginocchio destro, verso l'interno. Lo diceva prima il dottor Confalonieri, la bicicletta fatta bene, ovviamente, non le tre cime di Lavaredo, voglio dire, è un'attività che non affatica tantissimo il ginocchio. La corsa sì, lei è un uomo che giustamente ha fatto sempre attività sportiva, la sua cartilagine si è un pochino stancata, bisognerebbe metterla un pochino a riposo. Dottor Confalonieri, per non affaticare il ginocchio, le persone che amano fare attività sportiva, un'indicazione potrebbe essere quella di abbinare, variare, no, l'attività sportiva. Ma questa è un'indicazione assolutamente sempre valida. Tra l'altro, una delle discipline base del cross training è il nuoto. Sì. E indubbiamente il nuoto, essendo fatto in assenza di gravità, quindi senza sovraccarico a livello del ginocchio, diventa davvero ideale. Andrebbe evitato o comunque ridotta la quantità di nuoto a rana, in cui c'è una sollecitazione con degli angoli anche potenzialmente a rischio per il ginocchio, però per il resto va benissimo. E poi comunque variare nell'arco della settimana le caratteristiche del carico specifico sul ginocchio è fondamentale per evitare queste problematiche. Poi volevo aggiungere una cosa, accennava prima il professor D'Anchise alle problematiche legate alla rotula. Ecco, spesso si trascurano. Una valutazione fatta anche sui ragazzi, fatta anche sui giovani, fatta a livello delle scuole calcio o comunque di chi comincia a fare sport, su un'eventuale ipermotilità rotulea, cioè su una rotula molto mobile. Ma noi possiamo accorgercene da soli oppure è solo un medico che lo capisce? Sì, deve essere un medico che lo fa, però è una valutazione molto molto semplice. È davvero importante per ridurre i rischi di infiammazioni anche banali legate proprio a queste sollecitazioni della rotula, che possono pregiudicare l'attività del ragazzo o comunque della persona che comincia a fare sport. Perché questo è un aspetto, almeno nella mia esperienza, non so se il professor D'Anchise è d'accordo, importante, aspetto banale ma molto trascurato. Noi sinora ci siamo occupati di mantenere il nostro ginocchio agile, scattante, ma professor D'Anchise, lei di ginocchia ne vede tante, quindi anche di gambe. Sì. Lei mi insegna che anche l'occhio... Le ginocchia sono anche belle da vedere. Bravo, lei è un po' innamorato delle ginocchia che danno anche eleganza alle gambe. Certo. Non so se è un problema solo per noi donne, ma insomma, sapesse quante donne mi dicono guarda che brutte ginocchia che occhi, quindi e io dico dice? Non è vero. Lei dice sempre non è vero. Allora adesso che usciamo io e la Laura Banossi le facciamo vedere le ginocchia. Comunque, per quando le ginocchia si appesantiscono un po', la gamba cambia, no? Sembra subito un po' tozza. Questo è un cruccio, soprattutto per noi donne, dagli anta in su, ma non è detto che magari per alcuni anche un po' prima. Io ho in linea Silvia Giannasi, che è chirurgo plastico all'Humanitas. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno Nicoletta e buongiorno agli ascoltatori. Dottoressa, ci mettiamo nelle sue mani, perché la ciccia, la adiposità, come la chiamate voi, del ginocchio va ad annidarsi all'interno e lì non ci arriva né la ginnastica né la dieta, non va giù. È vero. Che cosa bisogna fare? Allora, in effetti Nicoletta ha perfettamente ragione, perché anche un importante dimagramento e anche un esercizio fisico intensivo difficilmente danno dei buoni risultati a livello delle ginocchia, in particolare a livello dell'interno delle ginocchia, che è la zona dove si accumula maggiormente il grasso. Per cui è necessario intervenire in un modo differente. Si parte da tecniche più blande, più soft, che si eseguono in ambulatorio, fino invece proprio a un intervento chirurgico che si esegue in sala operatoria. Tra gli interventi soft, prima di stringere... Tra gli interventi soft, quando diciamo l'adiposità non è particolarmente importante, quindi il volume non è particolarmente eccessivo, diciamo si parte da un semplice massaggio, un massaggio fisioterapico, però che quindi ha un effetto, come dire, linfodrenante, fino a tecniche che utilizzano delle sostanze chimiche, che possono essere delle sostanze sia farmacologiche che omeopatiche, che iniettate tipo mesoterapia all'interno del tessuto adiposo. Un po' come si fa per la cellulite, insomma. Fondamentalmente, tanto per essere più semplice, noi donne ci capiamo, mentre quando proprio il ginocchio è lì come una palletta in mezzo alla gamba che te la tozza, si può anche liposculturarlo, un termine. Si può passare invece a un intervento vero e proprio chirurgico, che però è un intervento in realtà poco impegnativo per la paziente, e l'intervento di liposcultura o liposuzione, che dir si voglia, che se interessa però solamente questa zona del corpo, un intervento che comunque si esegue in anestesia locale con una blanda sedazione endeospita, e quindi la paziente non ha praticamente convalescenza dopo. Un'ora dopo l'intervento viene dimessa, va a casa con le sue gambe, con le sue belle, e la sera può anche uscire a cena, voglio dire, con una leggera medicazione nella sede dell'intervento. Fantastico. E dopo una settimana va a ballare con la minigonna. Dopo una settimana magari proprio con la minigonna no, però va a ballare, perché comunque una ventina di giorni, un mese, perché ci sia il riassorbimento dell'edema post-operatorio ci vuole. Grazie alla dottoressa Giannasi, buona giornata. Grazie a lei, buona giornata. Io vado da Rossano, che ci chiama da Como. Buongiorno Rossano. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, complimenti. Grazie a lei. Senta, io volevo portare la mia piccola esperienza. Circa 3 anni fa, ero a casa di amici, una sera mi alzo per andare a casa e ho un dolore lancinante, ma proprio un dolore, tipo una pinzatura, ma veramente dolorosa al ginocchio destro. Addirittura mi hanno dovuto portare a casa in macchina, perché proprio non riuscivo neanche a guidare. Ghiaccio, risonanza, inclinatura del corno del menisco e lassamento di un legamento. Tutto insieme, così. Non ci credo. Avevo 86, ero 86 kg e non facevo sport. Ma Rossano, il professor D'Anchise non ci crede, è un po' sfacciato. No, non si è rotto il crociato, no. No, no, scusi, è un lassamento. Sì, del... ce l'aveva anche prima, per il crociato, sicuramente. Ecco, niente, dottore, sono il professore. io, vabbè, dopo una decina di giorni mi è passato tutto con il ghiaccio, sostanzialmente, è l'unica terapia che ho fatto. Però, poi Rossano, io devo quasi chiudere, se lei non per... Le posso dire una cosa, io credo di aver capito il problema, mai credere ciecamente alla risonanza. Lei probabilmente ha avuto un trauma al menisco che a mio parere non si è rotto, se è passato tutto non ci pensi più. Perfetto, perché poi ho cominciato a fare un pochino di attività sportiva, non ho assolutamente più sentito nulla. Oh, chiudiamo con questa esperienza positività. Positiva, positività, essere benessere, grazie al dottor Confalonieri. Grazie, a risentirci presto a noi tutti. Noi ci sentiremo presto, professor D'Anchise. Questo delle ginocchiere, lei dice no alla ginocchiera, ma i miei ascoltatori da ginocchiera la vogliono. Come ci mettiamo d'accordo qua? È un aiuto psicologico, qualche volta si ha bisogno di un aiuto psicologico, ma non serve, ma se non serve, c'è l'indicazione. E può far male la ginocchiera? Esatto. In quali casi? Può far male perché se è stretta riduce la vascolarizzazione e, come ho detto prima, si tende a muovere un po' meno l'articolazione e si ha una ipotrofia muscolare. Quindi occhio. Occhio, tutto con buon senso. Grazie al professor D'Anchise per essere stato con noi. Grazie a voi, come sempre, per averci seguito e essere intervenuti. Andate a visitare il nostro laboratorio del benessere, anche detto Daily Lab. Dante mi scusi e mi permetta, ma io come sempre vi aspetto domani. Possiamo anche salutarci sul nostro profilo Facebook. Allora, buona giornata, in gamba, un saluto da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.